L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Manca ormai soltanto una settimana al voto per le regionali del 28 e 29 marzo, siamo dunque agli sgoccioli e tutti i leader sono in giro per l'Italia per cercare così di rianimare o incoraggiare le truppe per il voto. Sabato scorso abbiamo visto a Roma la manifestazione del centro-sinistra, oggi ci sarà quella del PDL, però devo dire che se guardo alla settimana che poi ci interessa da vicino, che riguarda l'ottavo giorno, cioè quella cominciata sabato scorso 13 marzo e conclusa ieri venerdì 19, per l'ennesima volta devo segnalare che non c'è traccia, purtroppo lo dico, di programmi elettorali, di cose dette e promesse dai candidati. Ci ritroviamo puntualmente di fronte i soliti ingredienti della nostra politica, lo scontro sulla giustizia, per esempio, con poi i soliti protagonisti, governo e maggioranza, magistrati, CSM, con il presidente Napolitano che cerca un po' di fare il pompiere, di richiamare un po' tutti all'ordine e a ricomporre perlomeno i toni. Poi ci sono i ricorsi al TAR e sabato scorso è arrivato il nuovo stop alle liste del PDL a Roma e provincia, quindi non correrà nel Lazio, perlomeno nella parte centrale, cioè di Roma, il PDL. Poi ci sono state le solite polemiche sull'informazione sulla televisione, peraltro nella settimana in cui abbiamo assistito alla fragorosa uscita di scena dall'Isola dei Famosi, con anche polemiche che hanno coinvolto il Vaticano, di Aldo Busi. Comunque, per restare alla televisione, continuano a tacere i talk show della Rai, questo secondo me rende ancora più surreale questo clima di vigilia del voto, e così Floris porta in giro per l'Italia Ballarò, mentre Santoro si prepara a sbarcare con Anno Zero su Sky. Sicuramente mi sono dimenticato di qualcosa in questa convulsa, concitata settimana politica, però la voglio dire subito per dovere di chiarezza per i nostri ascoltatori. Oggi limiterò al massimo, il più possibile, la pagina politica, se ne è parlato già molto e giustamente poi in tantissime altre trasmissioni di Radio 24, e quindi mi limiterò veramente al minimo, soltanto due servizi che estraggo così a sorte dai tanti trasmessi nei GR di Radio 24. Entrambi ci riportano in Puglia, dove martedì Santoro è di scena a Trani che ha aperto un'indagine che poi è già stata trasferita, che riguarda anche Berlusconi, mentre giovedì c'è un arresto eccellente che coinvolge invece l'ex presidente della giunta regionale di Vendola. Sentiamo allora i servizi prima di Paolo Panceri e poi di Federico Longo. A Trani ieri è stato il giorno di Michele Santoro e degli ispettori. In mattinata il giornalista è stato sentito dai magistrati titolari dell'inchiesta sulle presunte pressioni di Silvio Berlusconi per bloccare Anno Zero. Basta leggere i giornali e basta leggere le dichiarazioni pubbliche fatte dal Presidente del Consiglio, non solo, per comprendere quale sia stata la pressione politica esercitata nei confronti della nostra trasmissione perché non andasse in onda. Per 5 ore fino a tarda sera il Palazzo di Giustizia pugliese ha poi ospitato l'incontro tra gli ispettori del Ministero della Giustizia, il capo della Procura di Trani, Carlo Maria Capristo, e il pubblico ministero Michele Ruggero, titolare delle indagini. Gli ispettori però non hanno potuto vedere né i fascicoli dell'inchiesta né le parti coperte dal segreto istruttorio. Al termine Ruggero ha rimarcato che si è trattato di un'audizione molto corretta. Sull'ispezione vigilerà il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha dato il via libera alla pratica sui controlli. L'indagine giudiziaria non può essere compressa dall'ispezione, ha sottolineato il vicepresidente Nicola Mancino. Ma la decisione del CSM, secondo il ministro Angelino Alfano, è inaccettabile e viola la Costituzione. Uno stipendio mensile di 12.000 euro per quasi un anno nel 2008, oltre a 150.000 euro in denaro, costosi capi di abbigliamento, buoni benzina, regali di vario genere e prestazioni di natura sessuale da parte delle prostitute assoldate da Giampaolo Tarantini. A beneficiarne, secondo la Procura e il GIP del Tribunale di Bari, l'ex vicepresidente della Regione Puglia, Sandro Frisullo, PD, arrestato ieri mattina nell'ambito di un'inchiesta della magistratura barese sulla gestione della sanità. In cambio del denaro e delle utilità percepite, Frisullo avrebbe fatto vincere a Tarantini e all'imprenditore barese Domenico Marzocca, indagato a piede libero, appalti per 1 milione di euro per la fornitura di materiale sanitario da parte delle società di Tarantini e per 4 milioni di euro per la gestione dei documenti cartacei e cartelle cliniche banditi dall'ASL di Lecce, aggiudicati a Tarantini e una società dello stesso Marzocca. Frisullo è stato arrestato per associazione per delinquere per 2 episodi di turbativa d'asta, per 4 episodi di corruzione invece indagato a piede libero. I legali di Frisullo, gli avvocati Michele Laforgia e Federico Massa, hanno espresso sconcerto e stupore per una misura cautelare emessa nei confronti di Frisullo, che da mesi e per propria scelta non ha più alcun incarico né politico né istituzionale. Oggi, qui all'ottavo giorno, volutamente usciamo dai confini di casa nostra, lasciamo la politica italiana alle sue beghe, prendiamo così un po' di aria fresca, ci muoveremo soprattutto sull'asse Parigi-Washington e poi faremo una virata importante, decisa, sul Medio Oriente. E allora domenica prossima ci sono le regionali in Italia, naturalmente lo sappiamo tutti, ma domenica scorsa invece c'è stato un voto molto atteso e significativo in Francia, un voto regionale che poi si è travestito in qualche modo da referendum su Sarkozy, anche perché è stato l'ultimo grande test prima delle presidenziali francesi del 2012. I risultati non sono stati sorprendenti perché gli analisti se lo aspettavano, ma è stata una debacle per Sarkozy. Sentiamo il racconto da Parigi di Igor Fiatti lunedì mattina. Due vincitori, l'astensione e la sinistra. La lettura del primo turno delle elezioni regionali francesi mette d'accordo tutti gli analisti. Andando ben oltre le ipotesi della vigilia, il partito dell'astensione si è rivelato infatti il primo partito di Francia. Così, il 53% degli aventi diritto al voto ha disertato le urne. Come era invece ampiamente previsto alla vigilia, il centrodestra guidato da Nicolas Sarkozy ha subito una netta sconfitta. Non solo il partito del presidente, l'UMP, è stato sopravanzato dai socialisti, ma se si considerano i voti di tutta la sinistra parlamentare, ecco che, usando una metafora automobilistica, si potrebbe parlare di doppiaggio elettorale. Ad ogni modo, per concretizzare questo distacco, la sinistra dovrà assolutamente compattarsi in vista del secondo turno di domenica prossima. Un voto direi cruciale, significativo, forse storico, lo dicono tutti, i politici, gli osservatori, gli ammiratori e i detrattori, attende anche il presidente americano Barack Obama. Mi sto riferendo al voto sulla riforma sanitaria, che non so bene come chiamare, potrebbe essere un totem, una chimera, una missione impossibile, che però attraversa la politica, la storia americana da almeno 30 anni, forse anche di più. Tanto per capire l'importanza della posta in palio, voglio citare le parole che ha scritto su Sole 24 Ore pochi giorni fa Mario Platero, il corrispondente dagli Stati Uniti, che ha detto, ha scritto: l'epica battaglia sulla riforma sanitaria è giunta allo scontro finale. E proprio Mario Platero è in collegamento con noi e sono felicissimo di averlo ospite all'ottavo giorno da New York. Buongiorno Mario. Eccoci. Allora Mario, anche ieri hai parlato nel tuo programma America 24, che va in onda, lo ricordo, dal lunedì al venerdì alle 13.30 su Radio 24, proprio della riforma sanitaria. Direi che sulla tua stessa lunghezza d'onda c'è anche Lucia Annunziata, perché ho letto un suo intervento sulla stampa, credo di martedì. Addirittura definisce questa riforma il deafening moment, il momento in cui ogni presidente americano si trova davanti a se stesso definendo la sua storia, storia scritta con la S maiuscola. Quindi siamo davvero di fronte a un momento cruciale. Vorrei capire da te, Mario, prima di tutto, perché di fronte a questa riforma sanitaria si usano questi toni quasi da Armageddon, da giorno del giudizio per Obama. Perché è così importante? Ma per due ragioni. Primo, perché la riforma sanitaria in America non è mai passata. Ci hanno provato molti presidenti, nessuno ci è riuscito. Secondo, perché rischia, nel momento in cui questa riforma dovesse passare, e ti dirò che la sensazione è sempre più che questa riforma alla fine domani passerà, il voto fermato dovrebbe essere domenica, ma nel momento in cui dovesse passare, beh, potrebbe avere un contraccolpo politico non necessariamente positivo per i democratici e per il presidente. Quindi c'è una situazione molto complessa. Cioè, quasi un paradosso, Mario. Storico, beh, è un paradosso relativo, nel senso che da una parte c'è il contesto storico, e dunque sul piano storico alla fine questa riforma sarà ricordata inevitabilmente come un passo in avanti, perché è una riforma che comunque estende la copertura sanitaria in un modo o nell'altro ad altri 30 milioni di americani, quindi quelli che restano fuori saranno poi probabilmente una decina, 10-12 milioni di persone, ma è questo appunto, ti dicevo, dal punto di vista storico. Dal punto di vista invece del nostro tempo, beh, ci sono, non dimentichiamo questo per capire bene un po' la psiche degli americani, che ci sono 30 milioni di americani che non sono assicurati, però ce ne sono 230-240 che invece lo sono e che sono ben contenti di avere l'assicurazione che hanno. Ecco, quindi questa stragrande maggioranza della popolazione teme alla fine di essere penalizzata nel servizio, nel costo, nell'aumento fiscale, per esprimere diciamo questo approccio così solidale con coloro che invece non ce l'hanno. Per cui questo è l'elemento di disturbo, cioè Obama punta molto sulla vittoria, punta molto su una dimostrazione di leader, punta molto sull'affermazione della sua promessa elettorale, e questo sicuramente nel breve gli darà un forte traino, e lui punta sul fatto che a fronte delle resistenze dell'opinione pubblica l'effetto vittoria possa davvero cambiare tutto. Vedremo, questo lo sapremo nei prossimi mesi, neanche nei prossimi giorni. Tra l'altro, se ho capito bene, secondo me c'è un altro punto cruciale per capire meglio l'importanza e anche i rischi attorno a questa riforma, perché pochi mesi fa direi che un ostacolo insormontabile nei confronti soprattutto di un eventuale appoggio dei repubblicani era legato per esempio al finanziamento, seppur indiretto, all'aborto, e ricordiamoci che nelle file dei democratici c'è una nota abortista come la Pelosi. Però invece oggi, se ho capito bene, i democratici sono anche disposti a sacrificare l'aborto, diciamo, i finanziamenti sull'altare della riforma. Però ci sono problemi invece più strutturali di diciamo così, copertura economica. E allora ti chiedo, Mario, perché bisogna fare una riforma sanitaria che andrebbe sicuramente ad aumentare il debito pubblico e dunque la spesa pubblica, che sono già a livelli pazzeschi per gli Stati Uniti vista la crisi che stanno vivendo proprio in questo momento, e quindi aggravare ulteriormente la situazione, tra l'altro a pochi mesi dalle elezioni del mid term, che potrebbero essere un, non dico un suicidio, ma insomma una debacle per Obama? Ma dunque, questo, sì, questo è sicuramente un punto molto importante. Il fatto è che loro speravano di avere questa riforma sanitaria finita, chiusa, archiviata per la fine di dicembre, al massimo per le prime due settimane di gennaio. Quindi c'è stato da parte della leadership democratica al Congresso, devo dire, una grossa sottovalutazione di quelli che erano i rischi impliciti nel ritardo di questo processo, soprattutto, come abbiamo visto, il rischio di perdere un seggio al Senato, come poi è successo quando Scott Brown ha vinto il seggio di Ted Kennedy e dunque ha ridotto la maggioranza blindata di 60 voti che poteva evitare ogni ostruzionismo da parte dei repubblicani e dunque ha costretto poi i democratici a andare lungo questo iter molto più complicato, molto più drammatico. E che cosa è successo? Che per evitare di tornare a questo voto, la Camera ha dovuto prendere il pacchetto del Senato così com'era. Normalmente nel processo di riconciliazione la Camera fa le sue modifiche, il Senato fa le sue modifiche, dopodiché si trovano insieme, fanno una conferenza di riconciliazione, trovano il compromesso e a quel punto tutti tornano al voto. Per evitare che di tornare al voto in un processo normale, voto che avrebbe appunto sollevato l'ostruzionismo repubblicano, la Camera ha dovuto adottare il pacchetto del Senato, così com'era. E qui sono sorte le complicazioni, perché c'erano due differenze di fondo. Il pacchetto del Senato di fatto autorizzava i finanziamenti all'aborto, ma non consentiva la cosiddetta public option. La public option vuol dire che è il governo che interviene e offre a sua volta un piano alternativo a quelli privati. Mentre invece il piano della Camera autorizzava la public option, quindi chiedeva che ci fosse un ruolo del governo nel estendere, nel dare, nell'attribuire un'assicurazione sanitaria, ma limitava, anzi proibiva il finanziamento alle cliniche abortive. E dunque su queste due differenze si è combattuta una battaglia politica non da poco, anche dal punto di vista tecnico, procedurale, perché come si riusciva a far quadrare il cerchio, cioè ad adottare la legge del Senato senza fare modifiche, ma poi riuscire lo stesso a fare delle modifiche. Ecco, sono riusciti a farlo e dunque questo ha portato, diciamo, in avanti la possibilità del voto. Non sono d'accordo sul rischio economico. La verità è che questo progetto di legge in realtà certo costa, perché andrà a costare circa 940 miliardi di dollari, però non ricade necessariamente tutto sulle spalle del governo, nel senso che una buona parte dei nuovi assicurati dovranno pagarsela da solo l'assicurazione, e se non lo fanno avranno una multa. Un altro flusso di reddito verrà da un aumento fiscale, e il risultato netto di tutto questo è che ci sarà alla fine di un periodo decennale un risparmio di 138 miliardi di dollari sul disavanzo pubblico. Mario, andiamo al volo a vedere invece che cosa succede per Obama a livello di politica internazionale, perché sicuramente in questo momento la grana peggiore riguarda il Medio Oriente, in particolare Israele, perché la settimana scorsa c'è stata la visita di Biden, di Joe Biden, il vicepresidente a Gerusalemme, che non li ha certo mandati a dire agli israeliani, e questa settimana poi il refrain, il ritornello è stato più o meno lo stesso. Sentiamo allora, per capire bene la situazione, questo servizio in onda mercoledì mattina di Cristina Balotelli. Martinelli. Il presidente americano Barack Obama incassa il no di Israele alle sue richieste di rinunciare a costruire nuovi insediamenti a Gerusalemme Est. Lo scrive il New York Times Online, secondo il quale il dissenso tra gli Stati Uniti ed Israele sugli insediamenti si è aggravato martedì dopo che rappresentanti del governo israeliano hanno respinto le richieste di Washington e hanno espresso irritazione per il rimprovero pubblico da parte dell'amministrazione Obama nei confronti del premier Netanyahu. Inoltre, aggiunge il quotidiano americano, sul sito della Israel Land Authority è stato pubblicato un annuncio sui progetti di costruzione di 309 nuove abitazioni nel quartiere di Neve Yaakov, nell'area nord-orientale della città. Intanto nei quartieri arabi presidiati dalla polizia ci sono stati lampi di intifada con centinaia di giovani palestinesi che si sono scontrati con le forze dell'ordine protestando contro l'espansione delle colonie ebraiche. Negli ultimi giorni, lo ricordo per dovere di cronaca, c'è stata anche una telefonata tra Hillary Clinton e Netanyahu, così per raffreddare la tensione. Però ieri, anche questo è giusto ricordarlo, il quartetto, ovvero questa squadra composita costituita da Russia, Stati Uniti, ONU e Unione Europea, ha invitato Israele a congelare tutte le costruzioni in Cisgiordania e Gerusalemme. E sempre ieri ho letto su Haaretz, che è un prestigioso, importante quotidiano di Israele, un sondaggio che deve far riflettere, perché secondo il 27% degli israeliani Obama è un antisemita. Detto questo, Mario, per chiudere in 30 secondi l'ultima battuta a te, qual è la temperatura in questo momento della crisi tra Stati Uniti e Israele? La temperatura è elevata soprattutto per ciò che riguarda i rapporti con l'amministrazione. Si cerca di sdrammatizzare. L'altra sera sono stato a una divertente cena organizzata dai corrispondenti televisivi e radiofonici e è intervenuto il presidente Biden, che era appena tornato da Israele, e ha fatto due battute che non sono piaciute agli israeliani. Ma la prima è stata, dice, dopo 5 giorni in Medio Oriente torno, è bello tornare in un paese, tornare a casa in un paese dove nessuno si lamenta se c'è un boom immobiliare, riferendosi al fatto appunto che ci sono lamentele per queste nuove costruzioni degli israeliani. La seconda era leggermente più aggressiva, dice è stato più facile in qualche modo cercare di affrontare la questione palestinese-israeliana che occuparmi della riforma sanitaria, che allora era ancora più difficile. Quindi gli americani cercano di sdrammatizzare. La realtà è che è molto più difficile, alla fine sarà molto più difficile riuscire a conciliare le differenze fra palestinesi e israeliani. Io credo che gli israeliani non molleranno, piuttosto che passare la riforma sanitaria che, secondo il mio pronostico, domani passerà in America. Rullo di tamburi, perché vado a presentare ormai un amico, un affezionato dell'Ottavo Giorno, Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, qui al mio fianco. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi. Carlo, ci ritroviamo esattamente 2 settimane dopo, ma d'altronde l'incalzare, l'incedere degli eventi, della cronaca, ci impone di ritrovarci, appunto perché sugli scandali di pedofilia ormai si sta aprendo, posso dire, una voragine, una parola grossa, si può dire? No, una voragine. È una voragine e insomma la Chiesa sta per essere sconvolta, insomma è già sconvolta da quello che sta accadendo, direi a tutti i livelli, alti e bassi, che siano. 2 settimane fa era appena cominciata questa falla in Germania con una serie di storie che andavano a lambire anche Georg Ratzinger, il fratello di Benedetto XVI, poi nel volgere appunto di pochi giorni si sono accesi focolai in più parti in Germania ma anche in Svizzera, quindi si sta davvero allargando lo scandalo. E allora, per inquadrare la situazione, il clima di questi giorni davvero difficili per la Chiesa, riascoltiamo Marta Cagnola nel GR delle 7 di domenica mattina. Il Vaticano passa al contrattacco sullo scandalo dei preti pedofili. Il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, in una dichiarazione alla Radio Vaticana ha denunciato il tentativo di buttare fango sul Papa. È piuttosto evidente che negli ultimi giorni vi è chi ha cercato, con un certo accanimento, elementi per coinvolgere personalmente il Santo Padre nella questione degli abusi. È chiaro che questi sforzi sono falliti. Prima le denunce di violenze sui ragazzi del coro di Ratisbona, poi le notizie di un prete pedofilo accolto per cure nella diocesi di Monaco nel 1980 e poi trasferito a nuovi incarichi parrocchiali quando arcivescovo della città era il futuro Papa, e nuove denunce dalla Bassa Sassonia. E ora, in merito al termine di prescrizione di 10 anni per i crimini di pedofilia, il promotore della giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, Charles Scicluna, ha annunciato che si sta pensando di tornare al sistema canonico precedente, quando i delitti più gravi non decadevano mai. Tra poco voglio tornare sulle parole di padre Lombardi, che poi sono in sintonia con quelle dette pochi giorni dopo davanti peraltro a Emma Marcegaglia, quindi il vertice di Confindustria del cardinal Bertone. Entrambi sostengono di fatto che ci sia una sorta di attacco sistematico, direi quasi premeditato, nei confronti della Chiesa sull'onda degli scandali di pedofilia. Però intanto vorrei anche sapere da te, Carlo Maroni, come hai vissuto da cronista dal Vaticano e del Vaticano questa settimana, direi molto difficile, molto complicata per la Santa Sede. Beh, naturalmente le vicende di cronaca si è ricollegato un po' tutte insieme a un unico, come dire, unico fatto sistematico, è un'onda montante, su questo non c'è dubbio, perché ci ricordiamo che la storia di queste vicende risale al 2002, quindi neanche tanto tempo fa, con il caso americano, poi c'è stato il caso australiano, poi c'è stato un periodo tutto sommato tranquillo da questo punto di vista. Stiamo comunque parlando di casi di minimo 30 anni fa, se non 40-50, quindi non è che stiamo parlando di cose accadute ieri, ma in questi giorni stanno venendo fuori. Che cosa tutte significa? Insieme, qualcuno addirittura ipotizza anche una frangia italiana addirittura dello scandalo. Ma c'è qualcosa, ci sono casi italiani noti, conosciuti, su cui ci sono stati anche addirittura delle... nuovi che potrebbero venire, certo, fuori, certo, anche nuovi. A Bolzano è il caso più eclatante, dove la curia peraltro si era già attrezzata per mettere il numero verde dove fare le denunce e ha delegato un sacerdote a occuparsene. Però ecco, diciamo così, che in tutto il mondo, in tutta Europa in questo momento per la precisione, accadono fatti che danno anche coraggio a chi a denunciare, perché è difficile una persona che ha 50 anni, 45, denunciare che quando ne aveva 16 fu molestato. Non è un fatto, non è che uno denuncia un furto. Quindi anche, però quando parte uno, partono anche gli altri. Quindi effetto domino. Effetto domino, ma non io non ci vedo il complotto in questa cosa. Perché, sai, una cosa è denunciare... dire io sono stato molestato da un sacerdote, per primo uno si autodenuncia, nel senso autodenuncia un fatto gravissimo riferito a se stesso. Gli equilibri poi psicologici sono delicatissimi. Credo siano, fortunatamente non ne ho contezza, ma sappiamo che sono molto molto delicati, e infatti la Chiesa tedesca, che in questo ha reagito, devo dire, molto bene, i vertici hanno messo in tutte le curie lo psicologo a sostegno delle persone che hanno denunciato fatti di cui erano state vittime. Quindi la Chiesa tedesca in questo ha reagito molto bene finora. E la cosa grossa che è accaduta in settimana è stata la Merkel, il cancelliere tedesco, che tutti sappiamo essere luterana, diciamo figlia di un pastore luterano, ha preso ed è sostenuta da un governo dove la Democrazia Cristiana, quella cattolica, quella della Baviera, il cuore del cattolicesimo tedesco, insomma, è stata molto dura sulla questione, e hanno convocato un vertice dove la Chiesa Cattolica andrà tra metà aprile, dove renderanno conto di quello che è accaduto. Ma la Merkel ha detto due o tre giorni fa: chiederemo i risarcimenti. Ora è una cosa che, insomma, c'è stato un passaggio di qualità. Però ha anche detto di non addossare tutta la croce. Infatti ha fatto Chiesa, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Inizialmente ha detto non addossiamo tutta la colpa alla Chiesa, proprio per ha riconosciuto la prontezza di riflessi della Chiesa Cattolica, del Vescovo Zollisch, quello che ha incontrato il Papa 10 giorni fa, in cui, insomma, è stato molto chiaro. Io ero presente alla conferenza stampa, è stato molto molto chiaro, ha risposto a tutte le domande. Una chiarezza che, devo dire, in Italia, insomma, non si trova facilmente. Insomma, con una battuta possiamo dire che in un discorso degnissimo di alta dignità della Merkel, comunque anche lei ha tenuto conto che i cattolici sono elettori, quindi primo non sono è il caso di rovinare. No, però in Germania questa cosa sta scuotendo per primi i cattolici, cioè sono i cattolici veri per primi chiedono chiarezza, non chiedono non che ci sia, come dire, una caccia alle streghe. Ecco, mi riallaccio a quello che hai detto adesso, perché volevo proprio sollecitarti su un intervento di Hans Küng, che è un celeberrimo teologo svizzero che nella semplicità spesso dei titoli di giornale viene definito eretico, perché ha delle posizioni non proprio in linea con quella che è la linea ufficiale del Vaticano, soprattutto quando c'era Giovanni Paolo II sul soglio pontificio. Ebbene, Küng, in un articolo che è stato anche ripreso in Italia da Repubblica giovedì, ha citato alcuni dati interessanti. Per esempio, c'è un sondaggio in Germania secondo il quale l'86% dei tedeschi giudica che il comportamento, la reazione delle gerarchie ecclesiastiche, soprattutto tedesche, di fronte agli scandali che stanno dilagando in Germania sia stata poco chiara. Quindi ti chiedo un commento su questo dato, comunque importante, perché l'86% significa davvero quasi tutti i cattolici, perlomeno tedeschi. E poi su questo Küng ha chiesto, non so quanto retoricamente, quando è che la Chiesa smetterà di evitare l'azione giuridica, cioè i processi nei suoi confronti davanti a tali scandali. Allora, su questo altro punto, il secondo punto che è essenziale, poi torniamo al sondaggio, è questa la svolta, perché se la Chiesa Cattolica, dobbiamo stabilire che non tutti i preti, naturalmente, sono stiamo parlando di una minoranza della minoranza. Questo è il fatto. Non è che, no, ma è giusto chiarirlo perché non è sempre chiaro. No, diciamo così. Anche sappiamo, da bar a volte che si fa. Chiaramente, sappiamo che ad oggi, auspicabilmente, ma anche verosimilmente, è la minoranza della minoranza. Stiamo parlando di casi. Nel mondo ci sono centinaia di migliaia di sacerdoti, qui stiamo parlando di. Però, basta uno. Per instillare il dubbio, e soprattutto la Chiesa Cattolica, le gerarchie, questo da sempre, forse dai secoli dei secoli, non sappiamo quanto, non hanno mai affrontato pubblicamente la questione. L'hanno trasferito al sacerdote, diciamo, resosi reo di questi crimini, perché è un crimine, è un reato penale nel paese dove vivono. Però ora, trasferendolo, sottraevano anche poi al giudizio. Non solo, ma gli davano possibilità di ricominciare in un terreno nuovo, per esempio, che ancora più, cosa accaduta regolarmente. Il caso di Monaco, quello che ha sfiorato Ratzinger, questo è successo. L'hanno trasferito da Essen, una città della Ruhr in Germania, Gross, a Monaco, e a Monaco, dopo qualche anno, quando Ratzinger non era più lì, ecco, chiariamolo, se no qui, ha ricominciato. Quindi è un po' come nascondere la polvere sotto il tappeto. Sì, ma la polvere che poi però si riorganizza questa polvere, non è che cioè. È primo, quindi se non c'è il passaggio, diciamo così, alla giustizia civile. Ma questa svolta secondo te è imminente? Il Papa la sta auspicando, verosimilmente nella lettera non verrà fuori questo, perché la lettera, non so se ora ne possiamo parlare, la lettera che arriverà, cioè, naturalmente in scaletta anche lì, dopo parliamo della lettera, ma diciamo così, il Papa lo chiede, o le gerarchie altissime vaticane lo chiedono di passare alla giustizia civile, ma poi nella prassi deve accadere questo. Un'altra cosa su Kung, perché poi voglio passare, appunto, come già annunciato, all'Irlanda, perché c'è una lettera che tra pochissimo scopriremo in tutta la sua interezza. Ebbene, Kung ha risollevato un'altra vecchia questione, quasi un topos in questa questione dei preti pedofili, cioè il rapporto quasi di causa-effetto tra celibato dei preti cattolici, dei sacerdoti, e le tendenze pedofile. Addirittura cita nell'articolo, chi vuole naturalmente può andarselo a scaricare da internet, dal sito di Repubblica, perché è comunque molto interessante, comunque la si pensi. Ebbene, dicevo, lui ha sollecitato la discussione su questo tema, tirando in ballo delle ricerche che sostengono, appunto, che una vita votata al celibato favorisce gli impulsi, le tendenze anche violente di pedofilia. Quindi chiedo un commento a te su questo. Io personalmente aggiungo una cosa, perché i numeri, se li prendiamo per buoni, non sono opinioni ma sono appunto numeri. Ebbene, i casi di pedofilia sono molto più frequenti in famiglia, quindi un padre di famiglia che ha attuato una vita sessuale, naturalmente è più pedofilo potenzialmente di un prete, e addirittura nelle scuole, quindi con gli insegnanti, con i maestri, ci sono più casi di pedofilia rispetto alla Chiesa. Ma questa è una parentesi che apro e chiudo per così anticipare la tua risposta. Allora, ci sono degli studi, credo molto seri, di cui ci siamo occupati, insomma, tutti più o meno che abbiamo seguito queste vicende in questi giorni, in questo periodo, che naturalmente mettono in evidenza quello che dicevi, cioè non c'è una correlazione oggettiva. Naturalmente, se capita che uno, due o dieci sacerdoti, preti o suore, perché anche le suore, dicono le donne non c'entrano niente, ma casi di suore che hanno commesso abusi e soprusi, attenzione che c'è questo doppio reato, perché non c'è solo l'abuso sessuale inteso come lo possiamo immaginare, spero molto pochi di noi lo sappiano, c'è anche dal punto di vista psicologico, la sudditanza, le cose da dominare, fare tutte queste cose qua, ma diciamo non c'è una stretta correlazione, bastano pochi casi. C'è stato qualche giorno fa il cardinale di Vienna, Schönborn, che è anche un allievo di Ratzinger, tutti considerano, insomma, il suo pensiero molto in linea con quello del Papa, anche se poi non è sempre così, come abbiamo visto su altre vicende. Bene, lui ha detto che erano in correlazione, infatti c'è stato un mezzo scandalo nella Chiesa in quei giorni, poi è arrivato il Papa una settimana fa a dire il celibato non si tocca, non è in discussione. Perché è uno, diciamo, dei cardini, non è un dogma, questo nel diritto canonico. Sì, però, anche comunque segnalava che non è una verità di fede, però mi sembra che da questo punto di vista la Chiesa non voglia rivedere allora sai, la Chiesa ha dei tempi che non sono commisurabili con niente. Però ecco, per il momento, diciamo, nei prossimi decenni, ecco, la Chiesa ha tempi, diciamo, 100 escludere... anni è un, come dire, è una, il tempo di una finanziaria, una modifica da noi. Sul celibato. Veniamo rapidamente all'Irlanda, siamo in chiusura di spazio, ma abbiamo tempo secondo me per mandare ancora un servizio, perché l'Irlanda è un po' il paese simbolo, purtroppo, suo malgrado, dei casi di pedofilia nel mondo, non solo in Europa. Mercoledì, seppur con grave ritardo, il cardinale Brady, che è il numero uno della Chiesa Cattolica in Irlanda, ha chiesto pubblicamente scusa. Invece, in questi giorni, in queste ore, ha preannunciato le dimissioni. Il Papa ha mandato una lettera ai fedeli, agli irlandesi. Tra pochissimi minuti, tra pochissime ore, conosceremo i dettagli in cronaca della lettera. Però ascoltiamo il servizio di presentazione di questo comunque passaggio importante di Ratzinger con Katia Caramelli nel GR di ieri mattina delle 7. Pentimento, guarigione e rinnovamento. Dopo le profonde ferite provocate dagli abusi sessuali sui minori? Questo chiederà il Papa alla Chiesa d'Irlanda, simbolo di tutte le chiese coinvolte dallo scandalo, nella lettera ai fedeli. La firma per scelta nel giorno di San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia. Vescovi dimissionari, altri intenti a chiarire il proprio ruolo nell'aver quantomeno messo un dovuto controllo sul comportamento del clero. Diocesi a rischio bancarotta, famiglie in fuga dalle scuole cattoliche, la credibilità di una chiesa tra le più radicate d'Europa, quella irlandese, messa a dura prova, mentre gli scandali dilagano anche altrove. In questo scenario, la lettera del pontefice, che non è detto che allarghi il suo orizzonte originario dalla situazione irlandese a quella continentale, di certo però sarà un messaggio con valore universale, ben oltre i destinatari. Il documento dovrebbe già contenere alcune indicazioni pratiche e confermare la linea dura di Ratzinger, tolleranza zero, giudizio penale per chi commette i crimini. Allora, tra poco andremo a leggersi nei dettagli la lettera di Benedetto XVI agli irlandesi. Per chiudere, una battuta su un discorso anticipato all'inizio del nostro intervento, sulle parole di Padre Lombardi e poi del Cardinale Bertone. Esiste o no un attacco mirato alla Chiesa sull'onda di questi scandali di pedofilia? Secondo me no, non c'è un attacco alla Chiesa. Non c'è neanche la forza, nessuno ha la forza per complottare contro la Chiesa. Anzi, a volte complottano un po' contro tra di loro. Ecco, questo tra di loro. Quindi auspichiamo comunque che la Chiesa con fierezza, ma anche con fermezza, affronti questa triste e terribile vicenda. Sì, anche perché stiamo parlando di scuole che sono radicate delle parrocchie della società, non stiamo parlando di beni interni. Quindi è per il suo bene che la Chiesa deve fare pulizia al suo interno. Ultimi minuti insieme, allora voglio toccare un argomento molto popolare, un argomento nazionale che interessa tantissimi, ovvero lo sport e nella fattispecie il calcio, perché è stata una settimana ricca di partite, di avvenimenti, di appuntamenti soprattutto sulla scena europea. C'era da chiudere il tabellone degli ottavi di finale di Champions League. L'Italia era già orfana di due squadre, Milan e Fiorentina. Mancava l'appello soltanto l'Inter, che doveva giocare la partita dalle mille suggestioni a Londra contro il Chelsea martedì, ed è stata un'impresa per i nerazzurri e soprattutto per il suo allenatore Mourinho. Sentiamo i dettagli in cronaca con Giovanni Capuano. Se la Champions è la competizione dei dettagli, come ama dire Mourinho, chissà quante notti avrà passato il portoghese a disegnare i 90 minuti che proiettano l'Inter tra le prime otto d'Europa. È stata una partita perfetta. Mourinho ha rischiato le tre punte più Snyder e gli attaccanti hanno risposto dando qualità e sacrificandosi in copertura. Ha imbrigliato un Chelsea pericoloso solo a fiammate e nella ripresa, con gli inglesi in evidente calo e sempre più nervosi, ha cominciato a pungerli fino alla rete di Eto'o, un altro che molti criticavano e nel quale Mourinho ha creduto ciecamente. Nei dettagli ci sono anche le trattenute in area di Thiago Motta e Samuel perdonate da Stark, segno che era la serata giusta sotto ogni profilo. Il Chelsea ha deluso soprattutto nei suoi uomini più attesi, a partire da Drogba, addirittura espulso nel finale. Due anni e mezzo fa Abramovic aveva cacciato Mourinho, ieri sera José si è preso la rivincita, battendo Ancelotti e spingendo l'Inter oltre il tabù europeo. E ieri ci sono stati i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. Manca davvero poco ad entrare nel vivo, nel vivissimo di questa straordinaria competizione. Sarà un caso, ma le tre squadre più attese in questo turno, cioè Barcellona e Manchester, che sono indiscutibilmente le più forti, ma naturalmente anche l'Inter, se non altro perché in panchina c'è l'allenatore più chiacchierato d'Europa, ovvero Mourinho, ebbene nessuna di queste tre si è incrociata nei quarti. All'Inter è andata, diciamo, piuttosto bene, almeno sulla carta, ovvero è capitata quella meno accreditata di tutte, cioè lo Spartak Mosca, però nel calcio e soprattutto con l'Inter non si può mai sapere. L'Inter peraltro rimane l'ultima superstite del calcio italiano a livello europeo, perché anche nell'Europa League, quella che una volta si chiamava Coppa UEFA ed era una coppa davvero gloriosa, è uscita di scena anche la Juventus, direi colpevole giovedì di una delle sue peggiori figure della storia. Sentiamo il resoconto di Massimo Di Scienza. In linea d'aria tra Craven Cottage e Stamford Bridge ci sono meno di 10 km, ma la distanza tra l'Inter poderosa che martedì ha stritolato il Chelsea e la derelitta Juventus che ieri sera si è fatta seppellire dal Fulham va ben oltre la geografia londinese. Due mondi diversi, l'organizzazione e la sicurezza dell'armata nerazzurra contro l'improvvisazione e la paura mostrate ieri dalla truppa di Zaccheroni. Eppure c'erano le condizioni migliori per portarsi a casa la qualificazione ai quarti. Subito il gol di Trezeguet accendeva le speranze dei mille tifosi bianconeri, ma faceva anche da detonatore alla voglia di riscatto dei ragazzi di Hodgson, che è vero si sono ritrovati un prezioso alleato nell'ineffabile arbitro olandese Kuipers, ma sono stati anche abili a capire dove e quando affondare i colpi nella disastrata difesa juventina. E così il rosso a Cannavaro, che forse aveva subito anche fallo nell'occasione dell'1-1, è parso sì esagerato, ma in 10 la Juve non ha fatto nulla per evitare il disastro. Stagione da buttare quindi, che solo il quarto posto in campionato può minimamente riscattare. Poi si dovrà ripartire fatalmente con altri e meno fragili interpreti e con una guida senza la data di scadenza stampigliata addosso. Devo dire che la disfatta della Juventus è davvero disarmante. Credo che questo sia il fardello più pesante, più ingombrante di Calciopoli. Ormai torniamo indietro davvero di 4 anni, era l'estate del 2006, insomma molto più pesante, più difficile soprattutto da superare rispetto per esempio alla retrocessione in Serie B, anche perché la Juve poi è rientrata prontamente nel calcio che conta. Chissà, forse ci vorranno anni per vedere la Juve davvero competitiva come lo era in anni precedenti, in anni passati. E veniamo però anche a quello che è successo nel campionato di casa nostra, un campionato che ormai si è ufficialmente riaperto, perché domenica sera, dopo la vittoria nel posticipo contro il Chievo, il Milan si è portato solo ad un punto dall'Inter, che avrà almeno per un altro turno ancora la pesante distrazione della Champions League. A San Siro, a seguire il match dei rossoneri, c'era Giovanni Capuano. Questo è il film della partita. Il Milan si è aggrappato ai suoi vecchi per non veder scivolare via l'occasione di portarsi a un punto dall'Inter ed entrare con il vento in poppa in quella che sarà una volata lunga 10 giornate. Ha deciso un gol di Seedorf al 91esimo, in un finale convulso in cui l'olandese, Inzaghi e Ambrosini hanno cercato di sgretolare il muro del Chievo, sin lì capace di chiudersi e poi ripartire, tanto da sfiorare anche la vittoria colpendo una traversa con Mantovani e vedendosi annullato un gol nettamente regolare. La squadra di Leonardo, con la testa e le gambe ancora a Manchester, si è risvegliata nel secondo tempo colpendo prima del gol un palo con Ronaldinho e creando poi diverse occasioni. Ride il Milan per la rimonta completata, piange per gli infortuni gravi di Abate e Beckham. L'inglese si è rotto il tendine d'Achille, mondiale a rischio, la difesa è in emergenza, ma i rossoneri di questi tempi hanno carattere e fortuna dalla loro. Mourinho e l'Inter sono autorizzati a preoccuparsi. In questa settimana di sport dobbiamo, gioco forza, dare spazio anche alla Formula 1, perché domenica scorsa c'è stato il debutto, in peraltro un po' noioso, insomma non è stata una gara esaltante, di quello che invece si preannuncia come un campionato molto atteso, se non altro perché sono in corsa 4 campioni del mondo, quello in carica Button, ma soprattutto Alonso, Hamilton e poi il grande ritorno di Michael Schumacher. Per ora però a sorridere è soprattutto, anzi direi soltanto, la Ferrari, che è partita davvero con il piede giusto. Sentiamo Massimo Di Scienza. Rieccola quella Ferrari veloce, sicura e vincente che sembrava dimenticata. L'abbiamo ritrovata nel deserto del Bahrain grazie all'accoppiata Alonso-Massa, con un 1-2 con cui si è gettata alle spalle una stagione terribile. Il trionfo dello spagnolo, il quarto pilota della storia di Maranello a vincere all'esordio, è un messaggio a tifosi e avversari: siamo tornati competitivi. Forse la Ferrari non è la più forte, forse quelle 2 tute rosse sui gradini più alti del podio non sono il verdetto più giusto del weekend di Shakir, perché Vettel avrebbe meritato qualcosa più del quarto posto dopo aver comandato per 34 giri ed abdicato causa guasto tecnico, ma le stagioni giuste si nutrono di pomeriggi così, e Alonso si può godere la gioia più grande. Io solo penso a tutto il lavoro che abbiamo fatto tutti i giorni a Maranello, la gente che lavorava giorno e notte, Presidente Montezemolo che caricava tutti in fabbrica ogni giorno perché voleva nessun errore, tutto perfetto. Qui il team ha dimostrato che siamo pronti per questo 2010. Massa cancella ogni dubbio sulla convivenza con lo spagnolo. Siamo qui forte a lottare, competitivo, consistente. Quindi grazie a Dio tutto è perfetto. Tra 2 settimane a Melbourne un nuovo verdetto, ma la Ferrari ed Alonso sono già in fuga. Chi segue l'ottavo giorno da tempo, da molto tempo, ricorderà che una volta c'era l'ottava notizia della settimana, è sparita dalla nostra scaletta, però per una volta così la voglio eccezionalmente tirar fuori, perché secondo me c'è una notizia tra le tante che merita una citazione d'obbligo, una notizia grave, importante, su cui è giusto riflettere, che peraltro forse è rimasta anche un po' inosservata, un po' in secondo piano nel bailam della politica di questi giorni. Riguarda quelle che sono le ultime novità che sono arrivate mercoledì sulla morte di Stefano Cucchi, il ragazzo appunto morto in carcere diversi mesi fa ormai, in circostanze quantomeno poco chiare. Sentiamo il servizio di Maria Chiara Grandis. Dopo 5 mesi dalla morte di Stefano Cucchi arriva la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia del Servizio Sanitario Nazionale. Le cause del decesso del 31enne le spiega il presidente della Commissione Ignazio Marino. Disidratazione legata alla volontà di richiamare l'attenzione dei suoi legali e del mondo esterno. Dunque non sarebbero state le presunte percosse durante la detenzione a causare la morte del geometra romano, avvenuta all'ospedale Pertini di Roma una settimana dopo l'arresto per droga. Lesioni traumatiche che il 31enne avrebbe comunque subito, si legge nella relazione votata all'unanimità dalla Commissione del Senato. 3 sono le guardie carcerarie indagate per omicidio preterintenzionale e Marino non esclude neppure la responsabilità dei medici. In 6 giorni Stefano hanno perso 10 kg. Soddisfatta dal contenuto della relazione, la famiglia Cucchi, lo dice la sorella Ilaria. Ora, di fronte a questa evidenza, che ormai le fratture recenti sono incontestabili, mi domando cos'altro si inventeranno pur di salvaguardare chi ha provocato le lesioni a Stefano. Forse cominceranno a parlare di caduta accidentale. C'è davvero poco da aggiungere a quanto abbiamo sentito. La storia, la vicenda tristissima di Cucchi è molto grave, ma a mio avviso sarebbe ancora più grave non arrivare a fare chiarezza in fondo, e speriamo insomma che non ci siano vicende, episodi di omertà attorno a questa morte davvero sospetta del povero Cucchi. Ci fermiamo qui, ottavo giorno, @radio24.it per chi ci vuole scrivere. Ringrazio in regia Valerio Rocchetti. Noi invece ci ritroviamo sabato prossimo alle 9. Per il resto siamo tutta la settimana sul sito www.radio24.it.